le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Corruzione e gare d'appalto truccate. In manette il vicepresidente della Lombardia, Mantovani, altri 12 indagati. L'opposizione chiede le dimissioni di Maroni. Una nuova ondata di violenze in Medio Oriente. 3 vittime e 10 feriti a Gerusalemme. Nelle ultime 2 settimane morti 27 palestinesi e 9 israeliani. La Guardia di Finanza in Campidoglio per controllare le fatture di Marino. Si apre il capitolo delle spese di Renzi da presidente della provincia di Firenze. Indaga la Corte dei Conti. 2 giorni il via libera alla legge di stabilità. Il premier apre sulle pensioni, poi annuncia leveremo il limite per l'utilizzo del contante a 3.000 euro. Maxi operazione nel mondo della birra. Sab Miller, proprietaria tra l'altro del marchio Peroni, accetta l'offerta di InBev. Si fonderanno e varranno 1/3 del mercato mondiale. La storica decisione della rivista Playboy, d'ora in poi niente donne completamente nude. Per quello, spiegano i vertici dell'azienda, c'è internet. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, questi i nostri titoli, ma ci occuperemo tra l'altro anche legge sulla cittadinanza. È stata approvata oggi alla Camera una forma di ius soli temperato e vedremo e cercheremo di farci spiegare dalla relatrice se riusciremo a raggiungerla, che cosa esattamente voglia dire una legge che è stata approvata alla Camera e passerà al Senato tra le proteste della Lega. In apertura però andiamo alla cronaca giudiziaria. Con l'arresto del vicepresidente della Regione Lombardia ed ex assessore alla sanità Mario Mantovani per corruzione. Concussione, corruzione e turbativa d'asta. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto del vicepresidente della Regione Lombardia e fino a un mese fa assessore alla sanità Mario Mantovani. Secondo le accuse avrebbe sfruttato l'influenza derivante dalle sue numerose cariche per pilotare alcune gare d'appalto nel settore sanitario, ottenendo in cambio lavori di ristrutturazione gratuiti nelle sue case e in quelle dei suoi familiari. Tra le gare pubbliche pilotate da Mantovani, tra l'altro quelle relative al trasporto di pazienti dializzati, all'edilizia scolastica e alle case di riposo. I fatti sarebbero stati commessi tra il giugno 2012 e il giugno 2014, quando Mantovani era senatore, sottosegretario di Stato, sindaco di Arconate e assessore alla salute della Regione Lombardia. Insieme a Mantovani è finito in manette il suo collaboratore storico, Giacomo Di Capua, 34 anni, capo di gabinetto dell'assessorato alla sanità, e un ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per Lombardia e Liguria, Angelo Bianchi, che già era stato arrestato nel 2008 per presunti appalti truccati in Valtellina e quindi rinviato a giudizio con altri nel 2012. Proprio per reintegrare e rendere tutte le deleghe ad Angelo Bianchi, Mantovani avrebbe esercitato pressioni sul provveditore delle opere pubbliche della Regione Lombardia e Liguria, Pietro Baratono. Nell'ambito della stessa inchiesta è indagato per turbativa d'asta l'assessore all'economia della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, ex parlamentare della Lega. Nell'ordinanza emessa dal GIP Stefania Pepe e firmata dal procuratore Bruti Liberati, si parla di perquisizioni e sequestri di documenti nelle province di Milano, Pavia, Varese, Vercelli, Rimini, negli uffici degli indagati, nella sede della Regione Lombardia e in 9 abitazioni e 17 enti e società. Il vicepresidente Mantovani proprio oggi era atteso a Palazzo Lombardia per aprire i lavori della giornata della trasparenza, durante la quale sono arrivate dure le reazioni di PD e 5 Stelle che chiedono le dimissioni del governatore Maroni. Così invece Silvio Berlusconi. Conosciamo Mantovani come una persona corretta e quindi siamo in attesa di notizie. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo tema torneremo tra poco alle 13:15, dedicheremo a questo un approfondimento. Prima di andare a sentire che cosa è successo in Israele questa mattina, insomma queste nuove violenze alle quali vi riferivamo nei titoli, c'è un aggiornamento politico importante e che riguarda il tema delle unioni civili, che è un fronte di tensione molto forte all'interno della maggioranza, soprattutto tra il PD e il nuovo centrodestra, al centro anche di uno scontro a quanto pare tra il ministro dell'interno Angelino Alfano e il presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'aggiornamento riguarda il calendario per le unioni civili. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, il gruppo del PD approva all'unanimità la proposta del capogruppo Zanda di chiedere la calendarizzazione in aula sul disegno di legge sulle unioni civili. Era quanto stato annunciato dal Premier questa mattina e i senatori di Forza Italia però cominciano a dire di no, per esempio, alle norme sull'utero in affitto. Quindi c'è stato prima da parte di Forza Italia un sì, ma comunque con distinguo. Però la cosa fondamentale è che si andrà probabilmente in aula subito dopo l'intervento di Matteo Renzi sull'Unione Europea, e Carlo Giovanardi del Nuovo Centrodestra dice di aver chiuso con un governo così. Simone? Sì, Elisabetta, per essere un po' più precisi sui tempi, dovrebbe andare sostanzialmente subito dopo l'approvazione delle riforme costituzionali del DDL Boschi, che oggi dovrebbe andare al voto finale al Senato, no? Sì, appunto, abbiamo il voto finale oggi, si parte alle 15, il Premier Matteo Renzi è intervenuto questa mattina sulla questione, facciamo noi le riforme con grande abbraccio a Gufi e loro derivati, tutti dicevano che non avremmo fatto la riforma istituzionale e oggi ci sarà il voto finale, prosegue Renzi, abbiamo fatto il Jobs Act che sta creando migliaia di posti di lavoro, le cose vanno meglio di prima, la maggioranza non cambia, garantisce poi il capogruppo del PD Luigi Zanda anche con il sostegno dei verdiniani, ma intanto a Palazzo Madama è arrivato questa mattina Silvio Berlusconi che chiede alle opposizioni di essere compatti sul no al disegno di legge Boschi e poi uniti sul referendum. Berlusconi sta incontrando i senatori di Forza Italia. Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Come si diceva, adesso andiamo all'estero, in Israele, dove oggi è stata un'altra giornata di terrore e di violenze. Tre attacchi quasi contemporanei hanno colpito questa mattina Israele, 2 Gerusalemme, 1 Tel Aviv. Il primo quando due assalitori sono saliti su un autobus ad Armon Hanatz via Gerusalemme Est, la parte palestinese della città, e hanno cominciato a sparare sui passeggeri e ad accoltellarli. Due sarebbero le vittime, stando alla BBC, così come sarebbero morti due aggressori colpiti dalla polizia. Qualche minuto dopo, a Marca Israel Street, in un quartiere ultraortodosso di Gerusalemme Ovest, un uomo si è lanciato con un'auto contro i pedoni alla fermata di un bus, uccidendo una persona. Poi è sceso, ha cercato di colpire i passanti con un coltello, è stato colpito dalla polizia, ferito, è stato catturato. Un terzo attacco era avvenuto poco prima a Ra'anana, un sobborgo a nord di Tel Aviv, dove un passante è stato accoltellato da un palestinese, poi bloccato dalla gente sul posto. Hamas si è felicitata per la intifada dei coltelli. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato per oggi pomeriggio una riunione di emergenza del Comitato di Sicurezza Nazionale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In un'area medio orientale tutto questo avviene già molto calda, anche su questo torneremo più avanti. Nel frattempo ritorniamo alla politica e torniamo a Roma. All'indomani delle dimissioni di Ignazio Marino si ragiona già su chi possano essere i candidati. Il PD sembra tendere verso le cosiddette primarie di coalizione, ossia si presenta un rappresentante per ogni partito della coalizione, che consentirebbe allo stesso PD di scegliere il suo candidato. Dall'altra parte, sul fronte della cronaca, c'è la Guardia di Finanza che è arrivata in Campidoglio. Dopo la formalizzazione del suo passo indietro, a Roma istituzioni e forze politiche lavorano al dopo Marino. Non ci saranno rinvii, la capitale andrà al voto nel 2016, tra aprile e giugno, assieme alle altre città chiamate alle urne, ha fatto sapere il premier Renzi, che è anche aperto alle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. Il 2 novembre, salvo ripensamenti di Marino, il prefetto Gabrielli dovrà nominare il commissario che traghetterà la capitale verso le elezioni. Poco più di un mese dopo inizierà il giubileo. Per evitare contraccolpi dalle dimissioni di sindaco e giunta, Renzi ha assicurato che il governo metterà in campo un team di esperti che si occuperà dei problemi della città, dai trasporti pubblici alle strade. Nel frattempo accelera l'inchiesta giudiziaria sulle spese sospette effettuate da Marino. Attorno a mezzogiorno, negli uffici del Campidoglio, si sono presentati gli ufficiali della Guardia di Finanza, che ieri hanno ricevuto dalla procura l'incarico di raccogliere tutta la documentazione disponibile. Al momento non ci sono indagati in ipotesi di reato, ma se dal materiale sequestrato dovessero emergere conferme di quanto denunciato nei loro esposti dalle opposizioni, non è escluso che Marino venga iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di peculato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto si indaga anche sulle spese del presidente del Consiglio Renzi quando guidava la provincia di Firenze e sotto l'occhio della Corte dei Conti, sotto i riflettori della Corte dei Conti, dopo un'inchiesta del quotidiano Il Fatto, sono finite proprio le spese per pranzi e cene. Di questo e anche del caso Marino ci parla oggi Daniele Biacchessi nella sua inchiesta. Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, la carta di credito del comune manco l'ha voluta all'inizio del suo mandato. Il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, non ha neppure ritirato la propria carta e tutte le spese sono state autorizzate preventivamente dagli uffici. Piero Fassino a Torino l'ha utilizzata, ma nel 2014 ha speso solo 2.000 euro. L'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, invece di euro con la carta di credito ne ha prelevati ben 22.490. A pochi mesi dalla sua elezione il suo plafond mensile era stato portato da 10 a 50.000 euro al mese. I giustificativi giungevano soltanto a posteriori. Le spese per cene, per nottamenti, biglietti e altro venivano direttamente anticipate dalle casse del Campidoglio e poi solo successivamente autorizzate dall'ufficio del cerimoniale e relazioni internazionali. Si tratta quindi di soldi pubblici che vengono spesi prima di essere autorizzati dagli organi di controllo. Sfogliando attentamente l'elenco dei movimenti si trova ad esempio una fattura da 1.270 euro per generici banchetti di cui non si specifica il numero e il prezzo. Si va dal bouquet di fiori acquistato a Parigi e portato alla redazione di Charlie Hebdo dopo l'attentato a cene per due persone per l'ammontare di quasi 300 euro. Intanto la Corte dei Conti indaga sulle spese sostenute dal premier Matteo Renzi quando era ancora sindaco di Firenze dal 2009 al 2014. Le prime verifiche fanno emergere 141.700 euro di spese per viaggi negli Stati Uniti quando Renzi era presidente della provincia di Firenze, 600.000 euro di pasti sempre nello stesso periodo. Alla fine la politica degli scontrini è costata la poltrona di Marino. Governo alle prese con la legge di stabilità, ieri esaminata in via preliminare che dovrebbe ricevere il via libera tra due giorni e parla oggi proprio il Premier. Dalla legge di stabilità al bonus di 80 euro, dalle elezioni nella capitale alle pensioni. Senza risparmiarsi nulla, il presidente del Consiglio Matteo Renzi a RTL 102.5 fornisce risposte a tutto campo sui temi aperti, soprattutto sul fronte della legge di stabilità. Il limite al contante sale da 1.000 a 3.000 euro per riportare i livelli alla media europea, al livello francese, dice Renzi, un modo per tracciare i soldi e aiutare i consumi. Poi gli 80 euro che rimangono per sempre e nel 2018 ci sarà un intervento sull'IRPEF, oltre che su partite IVA e specificatamente sul regime dei minimi. Con la speranza, commenta Renzi, che il 2016 sia l'anno della ripresa e della svolta. Non abbiamo promesso chissà cosa con la legge di stabilità, dice Renzi, buttiamo giù le tasse sulla casa, interveniamo sugli ammortamenti, eliminiamo IRAP e IMU agricola, interveniamo sulla cultura, sul terzo settore, apriamo le cattedre universitarie. Poi una volata sui temi caldi. Renzi è tornato sull'affare Marino. A Roma si vota nel 2016 a maggio, aprile o giugno, se conferma le dimissioni. Poi ancora sulle pensioni, chiuderemo nell'arco di pochi mesi, e ancora sulle unioni civili. L'Italia ha bisogno di una legge perché è un argomento che divide profondamente. E infine sugli scioperi. Siamo pronti a intervenire sulla rappresentanza, anche se il diritto è sacrosanto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di unioni civili, arriva adesso una dichiarazione di un senatore del Partito Democratico, Stefano Lepri, dell'area cattolica. Dice: è importante per noi che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza si sia sottolineato come sul tema delle unioni civili, in particolare della cosiddetta stepchild adoption, verrà data indicazione del voto secondo coscienza. E ora la maxi operazione nel mondo della birra. Quella di AB InBev, che ha trovato un accordo di base per l'acquisto delle quote di Sub Miller, è una delle tre fusioni più imponenti della storia. Stiamo parlando di due multinazionali che daranno vita ad un gigante che raccoglierà la metà degli utili realizzati nel settore della birra e un terzo della produzione totale. Nel patto informale raggiunto, il gruppo belga-brasiliano AB InBev acquisterà le quote di Sub Miller per 44 sterline per azione, per un valore che toccherà i 104 miliardi di dollari complessivi. Si tratta di un prezzo che, rispetto all'offerta di settembre, è cresciuto del 50%. L'accordo, che dovrebbe essere formalizzato entro il 28 ottobre, ha già entusiasmato i mercati. In questa mattinata sono soprattutto le azioni di Sub Miller a giovarne, con un rialzo superiore all'8%. Se l'affare sarà concluso, i marchi che vedremo riuniti sotto i comandi della medesima società includeranno Stella Artois, Budweiser, Peroni, Grolsch, Foster's, Beck's e molti altri. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le vicende vaticane: sono quattro i cardinali che hanno negato di aver sottoscritto la lettera di rilievi indirizzata al Papa in occasione del sinodo, tra loro anche l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Nel documento pubblicato dal vaticanista Sandro Magister, alcuni rilievi sul metodo adottato e timori per le conclusioni. E si torna a parlare di VatiLeaks. Che ci fosse un gruppo di padri sinodali che si era appellato a Francesco rivolgendo alcuni rilievi sul sinodo lo si sapeva da una settimana. Un gruppo che in sostanza teme che il sinodo sia pilotato e che le conclusioni possano essere già state scritte. Non sono bastate le rassicurazioni del Papa. L'Eucaristia ai divorziati risposati non è il nodo centrale, la dottrina sul matrimonio non è stata modificata e la messa in guardia. Non cedere ad una ermeneutica cospirativa di complotto. E così la lettera firmata da 13 porporati con i rilievi per Francesco ha travalicato le mura vaticane e puntualmente è arrivata ai media. Chi l'ha mandata? Perché? È la logica delle veline che torna a farsi strada, riportando tristemente alla memoria il VatiLeaks. Il rischio è che il sinodo mediatico, come lo ha definito il Sismografo, sito di informazione vicino alla Santa Sede, strumentalizzi i lavori. La posta in ballo è alta. Non possiamo, ha ricordato Francesco, avere una fede da museo. La Chiesa deve trovare nuove strade e nuovi linguaggi. Il sinodo dovrà necessariamente dire qualcosa di nuovo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal sacro passiamo all'estremamente profano con la storica decisione della rivista Playboy: rinuncia al nudo. Coniglietti, addio. Da marzo 2016 Playboy non pubblicherà più nudi integrali. L'annuncio dell'amministratore delegato Scott Flanders è di quelli che tracciano una linea rossa nella storia di un prodotto che è anche un fenomeno di costume. Ma come spesso accade, le decisioni commerciali prendono solo atto di un cambiamento che nella realtà di tutti i giorni è già avvenuto. Oggi con un click puoi trovare tutto il sesso che vuoi, ha spiegato Flanders al New York Times, imputando alla diffusione della pornografia su internet il declino della rivista. Lanciato nel 1953 con le immagini strepitose di Marilyn Monroe, dagli oltre 5 milioni e mezzo di copie del 1975 Playboy è sceso alle 800.000 di oggi. Nell'era del porno di massa, dunque, Playboy si fa casto. Una rivoluzione, ora come allora. Non per niente l'89enne Hugh Hefner è d'accordo. Lo so se sarò coniglietta, tu mi stringerai stretta e stretta, ma non sono abbastanza rifatta, se il mondo è tutto una teppa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi subito dopo torneremo a parlare dell'arresto del vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani. Torneremo a parlare di Israele e parleremo di un'altra inchiesta che riguarda il mondo del calcio. A tra poco. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: corruzione e gare d'appalto truccate, in manette il vicepresidente della Lombardia Mantovani. La Guardia di Finanza è entrata in Campidoglio questa mattina per controllare le spese dell'ormai ex sindaco Ignazio Marino. Una nuova ondata di violenza in Medio Oriente, 3 vittime e 10 feriti a Gerusalemme. Il Partito Democratico accelera sulle unioni civili, andranno in aula al Senato subito dopo il voto finale sulle riforme costituzionali che è previsto per oggi pomeriggio e c'è tensione col nuovo centrodestra. E tra due giorni l'ok alla legge di stabilità. Il Premier dice eleveremo il limite per l'utilizzo del contante a 3.000 euro. E veniamo alla nostra notizia di apertura, di nuovo quindi l'arresto del vicepresidente della regione Lombardia ed ex assessore alla sanità Mario Mantovani per corruzione. Abbiamo in studio con noi Angelo Mincuzzi, collega del Sole 24 Ore, che segue le notizie che arrivano dalla procura e non solo quelle, però insomma in queste ore sicuramente quelle. Angelo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Che cosa sappiamo in più, che dettagli in più abbiamo sulle accuse che vengono mosse a Mantovani? Ma allora, tenendo presente che le perquisizioni sono ancora in corso, quindi l'indagine si sta sviluppando ancora in queste ore, quindi insomma bisognerà aspettare per avere il quadro definitivo delle accuse. Stanno emergendo dei particolari che riguardano per esempio alcune società di cui Mantovani sarebbe di fatto l'amministratore, alcune cooperative che farebbero capo a lui e attraverso le quali poi si, come dire, dipanava tutta la sua rete di attività sul territorio, no? Attività che poi probabilmente ha avuto anche degli effetti politici, perché Mantovani è da lungo tempo ormai in politica, ha svolto diversi incarichi, è stato coordinatore regionale del Popolo della Libertà, è al vertice anche di Forza Italia. Insomma, non è un personaggio secondario. È un uomo di fiducia di Silvio Berlusconi. Anche Silvio Berlusconi oggi si è detto sorpreso, no? Ha detto: io conosco Mantovani come persona onesta, questa cosa mi stupisce. Insomma, l'indagine dei magistrati, che si è sviluppata anche attraverso intercettazioni telefoniche, al momento insomma fa trasparire un quadro ben differente da quello che Berlusconi ha descritto. Da quel che ho capito, Angelo, e dalle notizie che abbiamo fino adesso, non ci sarebbe stato un vero e proprio passaggio di soldi, ma più che altro il lavoro dato a queste aziende, che sarebbero di fatto nella sostanza di Mantovani, e dall'altra parte ristrutturazioni di casa o di edifici di proprietà gratuite. Sì, non ci sarebbe passaggio di soldi, ma passaggio di scambio di utilità, cosiddetto, in gergo giuridico. Sostanzialmente Mantovani si sarebbe fatto ristrutturare degli appartamenti o degli immobili di sua proprietà. Quello che Mantovani avrebbe fatto, lo avrebbe fatto però non da solo, perché gli indagati sono 12, gli arrestati sono 3, ci sono altri 12 indagati, tra i quali l'assessore all'economia della regione Lombardia, Garavaglia. Diciamo che questa inchiesta scuote al vertice la regione Lombardia. Non dobbiamo dimenticare che anche il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, è indagato e andrà a processo il 1° dicembre per una questione di induzione indebita, cioè avrebbe, come dire, cercato di favorire due sue ex collaboratrici per trovarle un lavoro. Quindi in questo momento i vertici della regione Lombardia sono al centro di due inchieste della Procura di Milano. In più c'è anche un assessore. Ti ringrazio, grazie ad Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore per questi chiarimenti, e vedremo quale sarà l'evoluzione politica della vicenda, oltre che evidentemente quella giudiziaria. Veniamo all'estero, a questa nuova ondata di attentati che ha colpito Israele, che ha colpito il Medio Oriente. Solo questa mattina 3 vittime e 10 feriti a Gerusalemme. Saluto Paolo Maggiolini, che è ricercatore dell'ISPI. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Maggiolini. Senta, dove ci può portare quella che è stata chiamata da qualcuno con un'espressione molto efficace, forse, l'intifada dei coltelli, perché molte aggressioni sono avvenute in questo modo? Beh, innanzitutto è appunto l'uso dell'intifada, come diceva, può essere utile per raffigurare l'evento, però non coglie esattamente quello che sta avvenendo, cioè nel senso che le violenze che si stanno ripetendo e che adesso hanno appunto questa escalation in realtà durano ormai da mesi, e quindi la questione viene riportata a luce su quello che è poi più profondamente la questione israelo-palestinese, che negli ultimi anni in realtà più che evolvere vive un congelamento, una stasi che in parte spiega il perché poi siamo davanti a degli eventi diffusi di violenza che coinvolgono però spesso individui o gruppi di persone, posto che è un movimento costante di popolo. Senta Maggiolini, ci dà un'idea di quello che può succedere nei prossimi mesi? Potrebbe esplodere tutto questo in una nuova intifada vera e propria, in un nuovo conflitto violento, serio e aperto con Israele? Sicuramente il fatto che la violenza si collochi sempre di più all'interno del tessuto di Gerusalemme è un problema ed è questa preoccupazione. perché se non, come è stato anche da molti analisti messo in luce, non è provato, non è probabile che sia effettivamente la questione della gestione dei luoghi sacri di Gerusalemme la ragione di quello che stiamo vivendo, è chiaro che l'aggiungere o comunque sia aumentare tensione su questo tema può essere un catalizzatore ulteriore. Dall'altra parte il problema grosso rimane gli aspetti politici, cioè la parte di autorità nazionale palestinese è fatta vivere comunque una sua crisi interna, la discussione sulla necessità del rinnovo dei quadri è sempre maggiore, c'è stata negli scorsi mesi e ora sicuramente davanti a questo momento di tensione in qualche modo probabilmente si congelerà aumentando il rischio. La cooperazione di polizia sta tenendo, però dall'altra parte pone chiaramente dei nuovi problemi ad Abu Mal e al suo entourage. Dall'altra parte Hamas stessa, in realtà, che sta soffiando sul fuoco, vive una parte di problemi all'interno della striscia di Gaza. E anche sul fronte israeliano in realtà sì. La situazione fa vedere che una vera linea politica su come far evolvere quello che non sta evolvendo la questione israelo-palestinese appunto pone ancora una volta molti molti più dubbi. Che si possa arrivare a una vera e propria intifada in realtà è difficile dirsi, perché le chiedo di essere breve, Maggiorini, se può stringere. No, prego. Molto semplicemente le due intifada precedenti sono state differenti. La prima intifada era stata appunto molto chiara e lunga, molto più del tempo che di solito gli si associa. La seconda c'era una in entrambi i casi delle direzioni politiche che ora sono difficilmente ritrovabili. La ringrazio, grazie a Paolo Maggiolini, ricercatore dell'ISPI, per averci descritto sostanzialmente quella che è una situazione di stallo. E saluto il nostro Dario Ricci. Buongiorno Dario e benvenuto. Buongiorno Simone. Buongiorno. Per parlare della vicenda che nel filone dell'inchiesta della Procura di Milano che riguarda le presunte irregolarità nell'assegnazione dei diritti TV del calcio avvenuti nella scorsa primavera, ci sarebbero degli indagati. Questi indagati sarebbero Gianluca Paparesta, presidente del Bari, il presidente del Genoa Enrico Preziosi, anche Claudio Lotito, presidente della Lazio e componente del Consiglio federale della FIGC, il quale smentisce tramite i suoi avvocati, o almeno dice di non aver notizia di questa indagine. Noi quello che vogliamo fare con te, Dario, al di là di questa notizia riferita oggi al Corriere della Sera, è che ci aiuti a capire che cos'è questa inchiesta. Ci dai qualche idea? Compito improbo quello che mi affidi, caro Simone, tra l'altro è una giornata di festa, perché oggi sono qua a Roma per raccontare poi Italia-Norvegia, che è la celebrazione della nostra qualificazione Euro 2016. Ebbene, arrivano queste notizie che di fatto creano un quadro composito, no? Perché al centro c'è stata l'asta, quella lo ricorderai bene, dell'estate del 2014 in piano mondiale brasiliano. C'era stata quest'asta per il rinnovo dell'assegnazione dei diritti TV. Ebbene, la Procura di Milano ipotizza che vi sia stato qualche accordo sottobanco tra Sky e Mediaset per in qualche modo violare le norme della leale concorrenza, così come gli inquirenti ipotizzano che Infront, l'advisor della Lega Calcio per questa importantissima asta, abbia in qualche modo orientato lo stesso bando nella direzione di Mediaset in modo da creare i presupposti per questo accordo, chiaramente teso poi a mantenere uno status quo e un incremento degli introiti per i club di Serie A. C'è poi l'altro filone dell'indagine, che è quello relativo a dei finanziamenti clandestini che la stessa occulti, che la stessa Infront avrebbe fatto arrivare ad alcune società che senza questi soldi non avrebbero potuto rispettare i parametri stabiliti dalla Covisoc, che è l'ente di controllo, la commissione di controllo per l'iscrizione al campionato. In questo caso sarebbero arrivate, ipotizzano gli inquirenti, con un'operazione estero su estero, una quindicina di milioni di euro al Genoa, e da qui l'essere indagato del presidente genuano Preziosi, e poi circa 500.000 euro al Bari, e da qui l'essere indagato del presidente del club barese, il Papa Resta, sotto forma di sponsorizzazione della seconda maglia. Ecco, questi accordi, di fatto questi prestiti, queste sponsorizzazioni sono sotto la lente di ingrandimento da parte degli inquirenti. E c'è poi rapidissimamente un altro aspetto che fa capo direttamente a quel fiscalista, alla sua società, quel fiscalista Baroni, alla sua D&F, la sua società, Baroni, che è stato arrestato venerdì, il giorno Andrea Baroni è stato arrestato venerdì, il giorno di queste perquisizioni, perché a lui farebbe capo anche una rete di grandi evasori, nomi importanti anche del in Italia, e quindi risulterebbe in qualche modo collegato a Infront attraverso una rete che arriverebbe addirittura fino a Mr. B, il famoso thailandese che sta acquistando, dovrebbe acquistare il 48% del Milan. Allora Dario, io intanto ti ringrazio per questi chiarimenti, ti auguro ovviamente buona partita Italia-Norvegia questa sera, che naturalmente ci racconterai ai microfoni di Radio 24. Noi adesso ci fermiamo con un filo di ritardo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo subito dopo. È stata approvata la Camera, come già vi dicevo in apertura, la nuova legge sulla cittadinanza, poi deve passare al Senato, però ci faremo spiegare dalla relatrice per sommi capi che cosa contiene. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la corruzione alle gare d'appalto truccate, in manette il vicepresidente della Lombardia Mantovani, la Guardia di Finanza in Campidoglio per controllare le spese di Marino, nuova ondata di violenza in Medio Oriente, 3 vittime, 10 feriti a Gerusalemme. Il Partito Democratico accelera sulle unioni civili, in aula in Senato subito dopo il voto finale sulle riforme, tensione con il nuovo centrodestra. La borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Una notizia importante appena battuta dalle agenzie: la Russia ha proposto agli Stati Uniti un incontro ad alto livello politico e militare a Mosca sulla questione siriana. A dirlo è stato lo stesso presidente russo Vladimir Putin. Noi torniamo alle vicende italiane adesso per parlare dell'approvazione alla Camera oggi della legge sulla cittadinanza, un'approvazione avvenuta tra le proteste della Lega, una legge che contiene il cosiddetto ius soli temperato. Abbiamo in linea con noi Marilena Fabbri, che è deputata del Partito Democratico ed è relativamente del provvedimento. Buongiorno Fabri e benvenuta. Salve, buongiorno a voi. Per essere legge ovviamente questa deve passare anche al Senato, però vogliamo capire da lei in realtà i contenuti. Che cosa vuol dire ius soli temperato? Ius soli temperato vuol dire che i bambini nati in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari o di diritto di soggiorno permanente se sono cittadini comunitari, possono ottenere la cittadinanza italiana, quindi nato in Italia da un genitore che abbia un radicamento territoriale e culturale, diciamo, di almeno 5 anni sul nostro territorio, perché il permesso di soggiorno di lungo periodo si acquisisce dopo 5 anni di residenza legale e una serie di requisiti, tra cui reddito adeguato, alloggio idoneo, assenza di cause pendenti di carattere penale, conoscenza della lingua, eccetera. E quindi in questo caso i bambini possono acquisire la cittadinanza su richiesta del genitore fin dalla nascita. C'è anche un'alternativa, da quel che ho capito, se il bambino ha seguito un intero ciclo scolastico, mi sbaglio? Sì, in questo caso si tratta di ius culturae, perché ovviamente non tutti magari i bambini nati potranno avere la cittadinanza, in quanto magari il genitore è qui da un periodo inferiore oppure non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo. Per ius culturae si rivolge sempre ai minori nati in Italia che magari non hanno i requisiti per ottenere la cittadinanza secondo lo ius soli, e ai minori arrivati in Italia prima del compimento del 12° anno di età. Per questi viene richiesta la frequenza scolastica di istituti nazionali per almeno 5 anni sul suolo italiano. In questo caso, cioè finita la frequenza di questi 5 anni, possono richiedere la cittadinanza sempre il genitore residente legalmente in Italia. Il diritto può essere... Prego, prego. No. Il diritto può essere esercitato sia nell'uno che nell'altro caso dal momento in cui maturano i requisiti e fino al compimento della maggiore età da parte del genitore. Ci sono novità, e glielo chiedo brevemente se può stare nei 30 secondi, per la cittadinanza degli adulti? Sugli adulti no, in questo momento no, anche se questa legge in realtà si applica anche ai nati o agli arrivati prima del 12° anno di età che abbiano compiuto più di 20 anni, quindi c'è comunque una parte di adulti che viene interessata da questa legge. Una sorta di retroattività, una sorta di retroattività, diciamo così. Esatto, a loro poi viene richiesto un paio di condizioni in più, però insomma si amplia la platea rispetto solo ai minorenni. La ringrazio, grazie a Marilena Fabbri, deputata del PD, per averci spiegato come funziona questa legge, sulla quale, come ripeto, c'è stata una forte opposizione da parte della Lega e Forza Italia si è spaccata più o meno in due, andrà al Senato. Traffico, platero, ci ritroviamo alla fine.